può addirittura peggiorare addirittura le condizioni di vita degli esseri umani tramite l'uso di armi. Certo, o peggiorarla se parliamo di armi chimiche, certo, giustamente. Ok, per noi va benissimo così, la ringraziamo della disponibilità e niente, le auguriamo buon lavoro. Ritornati in onda dopo questi 30 e passa minuti di intervista. Speriamo insomma che non vi siate addormentati lungo questi lunghi minuti. No, vedrai che ancora ci segui qualcuno. Allora, insomma un attimo per riprendere il discorso. E come avete sentito, insomma, il professor Campanella ha parlato un po' in generale di quella che è la vivisezione all'interno dell'università e diciamo che le parti che io trovo più interessanti comunque di tutta l'intervista riguardano soprattutto diciamo la parte finale in cui si accenna al discorso diciamo più di contingenza che c'è tra la vivisezione e l'industria bellica piuttosto che quella farmacologica di ricerca batteriologica, insomma sono un po'... È un po' la parte che io ritengo personalmente più interessante perché è forse quella a cui meno si pensa, ovvero che tutti abbiamo un po' questa immagine, no, di vivisezione come ricerca medica per la salute, così come un po' anche il professore si spingeva dicendo appunto sono ben contento se la vivisezione viene fatta comunque per fini diciamo nobili come quelli del... di salvare vite umane. In realtà insomma abbiamo innanzitutto la consapevolezza che molta della vivisezione non viene fatta diciamo in questi termini. Dopodiché appunto come dicevamo prima ci tengo molto a sottolineare il fatto che non è che noi condividiamo l'idea che una ricerca medica in favore dell'essere umano debba portare comunque alla sofferenza dell'animale. È diciamo molto contrastante diciamo con le nostre idee questo. Sì, diciamo che comunque si tende un po' a scaricare la parata bollente, il barile su quello che è l'anello più debole. In questo momento si tratta degli animali, ma più volte anche da questi microfoni abbiamo commentato come nel corso della storia i soggetti interessati ad essere l'ultima pedina siano stati vari tipi di persone. Un esempio fra tutti può essere quello delle quali si trovano varie testimonianze anche in rete, ci sono vari studi soprattutto negli Stati Uniti di quello che è stato diciamo il padre della ginecologia che inizialmente faceva i suoi studi sulle di vivisezione proprio su le donne nere, perché tanto comunque erano donne nere e quindi valevano meno delle donne bianche e quindi diciamo da questo punto di vista era lecito. Anche in quel caso si trattava più o meno dello stesso discorso che viene fatto per gli animali, cioè si dava una relazione di ordine nel quale c'erano delle persone che erano considerate moralmente superiori a delle altre e delle persone che erano inevitabilmente considerate inferiori e quindi sulle quali era lecito in nome di una giustizia per le persone migliori fare qualsiasi cosa. In questo caso si tratta invece di animali, quindi comunque non lo so, individui che sono ancora più diversi da noi, nel senso ancora più difficile diciamo così trovare una forma anche di comunicazione eccetera, quindi è spianata anche la via per creare questa gerarchia di importanza e definire quello che è l'animale moralmente superiore e quello che è l'animale moralmente inferiore. E quindi da questo punto di vista diciamo il discorso che l'uomo fa per giustificare la vivisezione fila. Però se noi vogliamo porre comunque una critica radicale che metta in discussione quelli che sono i meccanismi di sfruttamento all'interno della società, così come facciamo per gli umani, è giusto secondo noi farlo anche per gli altri esseri senzienti, come possono essere gli animali non umani. Intanto credo che abbiamo una telefonata da mandare in diretta, mettiamo un secondo di musica e cerchiamo di coordinarci. Ricordo nel frattempo per chi vuole intervenire il numero di telefono è lo 06 49 17 50, il numero di cellulare è per mandare gli sms 342 35 74 357. sente? Io sento. Allora, abbiamo un ascoltatore in diretta. Ciao, ci senti? Sì, ciao, io sento, voi pure. Ciao. Allora, allora no, sono Antonio, no, un compagno che già era intervenuto tempo fa per un'altra questione. Comunque questa era che gli esperimenti sugli animali, qualsiasi fanno a livello medico per gli umani, è sbagliato a prescindere, perché gli esseri viventi non sono tutti uguali, noi umani siamo diversi. In più gli esperimenti, le medicine, i vari test si fanno sugli uomini e le donne non vengono considerate totalmente, come avete detto prima, con le donne nere è ancora peggio, per cui il dottore diceva una cosa completamente falsa, lo fanno solamente esclusivamente per un discorso del business militare, cosmetico, eccetera eccetera, e tengono sto cavallo di troioni, scusate la parolaccia, come scusa per fare tutto il resto, tutte le altre porcherie. Ma la sperimentazione animale applicata agli uomini a livello medico è completamente sbagliata, almeno questa è notizia che so io da vari fonti che ho sentito. Sì, diciamo, ci sono molti pareri scientifici che appunto sostengono che la ricerca sugli animali sia completamente inutile, perché sì, proprio dal punto di vista dannosa, anche del DNA c'è una differenza. Era quello, scusa. Sì. No, è dannosa, cioè dannosa a noi umani, agli animali, alle donne soprattutto, ai bimbi che a loro proprio non li calcolano proprio, perché è tutto sperimentato in base agli uomini bianchi di un'età medio-bassa, penso, cioè scusate la battuta. Comunque era solo quello, cioè quel dottore lì, peccato che non gli avete detto, ma scusate, ma se gli esperimenti sugli animali non valgono per nulla sugli esseri umani, ma chi li fa da fare? Perché l'esercito ve lo, diciamo, fa fare, ve lo impone o fa in modo che questo avvenga. Vi saluto e grazie, scusate se sono stato lungo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ti ringrazio per il contributo. Grazie, ciao. Sì, diciamo che in realtà abbiamo provato a chiederlo, a parlare anche di un discorso su quelle che sono le lobby degli allevatori, eccetera, e diciamo il professore però ha dato una sua opinione che noi chiaramente non condividiamo e che contestiamo e che stiamo contestando in questo momento, sul fatto che secondo lui per alcuni tipi di ricerca dal punto di vista della neuropsicologia eccetera, alcuni esperimenti sugli animali sono necessari. Noi naturalmente c'è anche tutta una corrente scientifica molto ampia, molto moderna, che si oppone a questo punto di vista, perché appunto sono stati anche dimostrati molti casi in cui gli esperimenti sugli animali sono totalmente falsi, visto che appunto poi si parla tanto, ad esempio, lo spauracchio dei bambini malati di cancro, in generale di malattie incurabili, eccetera. Sono anni che vengono curate sui topi, come su tanti altri animali. Sugli uomini naturalmente non è così, perché si tratta di organismi totalmente differenti. E non so, io intanto manderei una canzone, così anche per interrompere un momento, e poi non so se ci sono altre telefonate, se no così avviamo verso la conclusione, visto che si è fatto un orario, abbiamo anche alcuni appuntamenti da darvi. Compassion for the animals who are killed for our plates. Who are killed for our plates. Compassion for the animals who are killed for our plates. Compassion for the animals who are killed for our plates. Compassion for the animals who are killed for our plates. E allora abbiamo ancora in diretta il compagno di prima che voleva. A un'altra persona in diretta, bene, che vuole aggiungere qualche cosa. Ciao, ci senti? Sì. Ciao. Mi sentite? Sì. E qualcuno non ci sente, però voglio a dirlo, no? L'alimentazione carnivora provoca guerre, rivoluzioni, delitti e malattie, viste le cortellate di oggi alla partita da Lazio, numero uno. Numero due, dovete fare la trasmissione, no? In diretta, ma capito? Un'ora opportuna, no? Numero tre, parliamo di questi criminali e dei vivisettori, va bene? Gli posso dire due cose? Sì, brevemente. Gli dico brevemente. Diciamo, sì, sì. Il delirio si chiama, il delirio dei vivisettori, scritto da Stefano Cagno, non è vero, che è un medico chirurgo, tra l'altro psichiatra. Io sono contrario alla psichiatria, va bene, per ovvi motivi, però questo glielo metto in culo in tutti i modi, in tutti i sensi. Scrive così: Chi è questo? Medico chirurgo, dirigente medico ospedaliero in psichiatria, membro del comitato medico scientifico di AVI, cioè Associazione Vegetariana Italiana, no? Onore e gloria, no? E allora scrive così, no? Intanto, l'avisazione è un metodo di ricerca la cui validità scientifica non è mai stata dimostrata e non mai potrà esserlo, poiché nessuna specie può essere modello sperimentale per nessun'altra specie. Qui si parla di specismo, il caso Samadhi, avete capito o no? Di sì, specismo, sì. Specismo. Beh. Allora, la ricezione viene fatta a fine di lucro, e aggiungo io, non è soltanto per lo specismo, ogni organismo, anche umano stesso, è diverso da un altro, non è possibile, non è possibile assolutamente, ma insomma parlare, già Lorenz eccetera eccetera hanno dimostrato scientificamente, non a fine di lucro, no? Che la vivisezione è un crimine, un delitto contro l'umanità e contro l'uomo, del cazzo stiamo a parlare. Troppo lungo, senti, guarda, ti ringraziamo per l'intervento. No, ve lo dico. Però senti la conclusione, no? Sì. Stefano Cagno, che no, siamo io, in chiusura. Virgolette, scrive: beh, anche noi lo sappiamo che la vivisezione, no, provoca sofferenza e morte negli animali, danni per la salute umana, hai capito? Sì. Contro la scienza. Sì, sì, ma è abbastanza chiaro quello che dici, che poi anche... No, io non dico niente, questo no, è diciamo, il contributo che volevi portare. Se insomma. Parlavo io, ai miei settori me li inculavo proprio a morte, che facevo provare che era la risezione, capito? Che non la conoscono. Va bene. Allora, senti, no, è finito qua. Provoca, non è vero, sofferenza e morte negli animali, e poi bisogna dire chi sono gli animali, no? Le bestie sono loro, gli animali siamo noi. E sti cazzi, eccetera, eccetera. Danni per la salute umana, hai capito come? E rovina la questo scrive Stefano Cagno, gli mortacci. E rovina la, senti che scrive, è finito. E rovina la personalità addirittura di chi la compie, addirittura, hai capito? Di sti pezzi di merda. Ma poteri forti dunque ed interessi personali non permettono di prendere la decisione più sensata, abolirla. E che cazzo, no? Questo non ho scritto io, ha scritto Stefano Cagno. Se io dicevo io che mi hanno torturato pure a me sti pezzi di merda, perché sono pezzi di merda che torturano pure gli umani, hai capito, no? Puntini e puntini, ciao. Va bene, grazie mille, ciao. Grazie, un bacio. Vabbè, mi sembra molto chiaro anche l'intervento di questo ascoltatore. Allora, mettiamo un secondo di musica per leggervi gli appuntamenti e poi ci dirigiamo alla conclusione, visto che anche la trasmissione successiva scalpita. I see a microphone. I'm checking it, love music, the record executives wrecking it. Now, you can take your chart and then quickly just stick it. See, I'm doing my own thing and I'm kicking it wicked. Now, listen up, dickhead, I won't give you a chance to tell me what kind of music I should listen or dance to. That's if I did ask you, see, that's rude. Now just sit back and relax and let this pussy attack you. Hey, there's a hole in the dance floor that is not okay. Ok, eccoci ritornati in onda. Allora, prima di salutarvi volevamo dare giusto qualche notizia. E leggiamo dal sito di Federfauna, il nostro caro sito, nostro amico, portale preferito. Insomma, esatto, che stasera però ci dà insomma questa notizia preoccupante, nel senso che a quanto pare si apprestano a costruire, insomma, a rendere attivi dei nuovi allevamenti di visoni. Quindi leggiamo: non soltanto da Antegnate i visoni arrivano anche a Misano. Anche a Mesano si appresta a ospitare un allevamento di visoni, forse già entro la fine di questo mese nell'azienda agricola Le Gramandi troverà posto un migliaio di questi animali da pelliccia. I preparativi sono a buon punto, come spiega Damiano Langramandi, titolare dell'azienda di famiglia insieme ai fratelli. Dobbiamo terminare una recinzione, dice, e poi in teoria alla fine del mese potremo cominciare con l'allevamento di visoni. Lo stesso Langramandi spiega il perché abbia deciso di affiancare l'allevamento dei bovini da latte quello degli animali da pelliccia. Sono arrivato a un bivio: o spendere 250-300 mila euro per raddoppiare l'allevamento di bovini, oppure intraprendere accanto a questa un'altra strada. Mantenere l'allevamento dei bovini da latte con le attuali dimensioni mi costa in media 9,20 euro al giorno fra mangime da dare ad animali e costi vari. Se consideriamo la consegna di 750-800 litri di latte al giorno, mi rende 12 euro al giorno. Io con meno di 3 euro giornalieri di guadagno devo ricavarmi stipendio, soldi degli affitti e manutenzione dei macchinari. Pagato tutto, mi restano 1200 euro netti al mese, senza considerare che il prezzo del latte al litro potrebbe scendere ancora. Non me la sento proprio in questo momento di investire 250.000 euro. E poi ho anch'io una famiglia. Da qui la decisione di provare con i visoni, fermo restando l'allevamento delle vacche da latte. Ci siamo informati presso altri allevatori, prosegue Le Gramandi, e abbiamo approfondito la materia anche con le ricerche all'estero. Non è colpa nostra se il mercato internazionale richiede le pelli di questi animali. Noi comunque alleveremo soltanto i visoni, senza trattarne le pelli. Insomma, chiaro ed evidente, da questa intervista che viene fatta a questo signore, che insomma gli animali ovviamente per lui non sono altro che insomma delle semplici merci, come dice in finale, loro allevano soltanto i visoni, non ne trattano la pelle, così un po' a lavarsi le mani di quello che poi accadrà a questi animali. E vabbè, che altro dire? Nel frattempo abbiamo un'altra telefonata e pronto, ci senti? Sì, ciao a tutte e a tutti. Ciao. Niente, allora innanzitutto volevo farvi i complimenti perché la trasmissione di stasera mi ha colpita particolarmente. Poi volevo portare la mia testimonianza, nel senso che io ho seguito dei corsi in alcuni centri in cui ci si occupa di sperimentazione animale, in particolare dei primati in Germania. E niente, praticamente la mia esperienza personale, almeno per quanto riguarda le opinioni, quello che ho visto e le opinioni dei ricercatori che praticano questa sperimentazione, che io, vabbè, io non condivido personalmente, non mi ci voglio mischiare, insomma, però niente, praticamente scusate, non sono abituata a parlare in radio. Tranquilla. Niente, tendenzialmente ho visto all'estero rispetto all'Italia che gli animali vengono trattati con molto più rispetto, per quanto questo ovviamente sia possibile. Trovo che molte sperimentazioni che vengono effettuate, ho avuto degli esempi, proprio me li sono trovati davanti, sono assolutamente inutili. E a conferma di ciò dovreste andare su internet e cercare informazioni per quanto riguarda SV40. Quindi Savona Verona 40, che è un virus che è derivato proprio dalla cattiva gestione della sperimentazione animale, e lo scopo iniziale era quello appunto di trovare una cura per la poliomielite. Adesso non ho internet davanti per dirvi cose più dettagliate, però è molto interessante andarselo a trovare su internet e leggere. Poi niente, questa è la mia esperienza riguardante questo. Poi volevo dirvi, sì, esistono degli stabulari alla Sapienza, ci sono sia di primati che roditori, per quanto ne so io, però allo stesso tempo, pur non condividendo neanche gli scopi curativi medici, come il professore appunto affermava, non mi sento totalmente di condannarla o intraprendere azioni a riguardo. Io personalmente, cioè, questa è la mia opinione, e niente, tutto qua. Va bene. Va bene. Ti ringraziamo per l'intervento. Guarda, l'unica cosa, rimani un secondo al telefono, noi sì. Mettiamo intanto la canzone, che sì. Ti diciamo una cosa, vai. We'll be right back. tecnologia. Allora, torniamo in diretta e ci volgiamo proprio rapidissimamente alla conclusione. Oggi abbiamo sforato di brutto. E vi vengo a leggere quello che è un appello fatto da Earth First Newswire, quindi un appello internazionale. Primo concorso annuale di caccia alla videocamera di sicurezza, perché le videocamere di sicurezza non si distruggeranno da sole. Per partecipare, due punti: studia il territorio della tua città, paese, complesso industriale o commerciale limitrofo. Studia una serie di piani ben pensati, con una serie di piani BC per evitare di essere beccati o riconosciuti. Raduna i tuoi materiali, mascherati, evita di metterti a lavoro con persone con cui non hai una forte relazione, distruggi e disabilita videocamere di sorveglianza. Per vincere, due punti: quando l'apparato di sorveglianza viene inceppato, siamo tutti a vincere. In ogni caso, in uno spirito di lotta e di divertimento, il collettivo clandestino, immaginiamo un ipotetico fronte di liberazione dell'invisibilità, o la regione, la città o la cittadina che raggiunge il maggior coefficiente distruttivo in dollari statunitensi, che verrà ricavato da fonti mediatiche dal 1 gennaio 2014, verrà dichiarato vincitore del primo concorso annuale di caccia alle telecamere. Certamente il primo gruppo che distruggerà un drone di sorveglianza vincerà a prescindere, a meno che due o più gruppi riescano a rivendicarsi l'abbattimento di un drone, e in tal caso si tenderà a considerare il danno economico. Questo, vabbè, ricordo, lo leggiamo da internet. Esatto, lo leggiamo da internet, insomma, poi so, questo fate è bobby per gli Stati Uniti, poi insomma, no. Però è internazionale. Però, esatto. Comunque, trovate pure sul sito www.informazione.info questa traduzione in italiano. Ok, sempre da informazione, leggiamo un attimo anche del presidio che ci sarà sotto il carcere minorile di Casal del Marmo il 14 aprile 2013 alle 15. Ci siamo dati appuntamento sotto le mura del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Una società che margine rinchiude ha qualcosa di profondamente sbagliato. Chi lucra sul nostro sfruttamento non rinuncerà mai ai propri privilegi per bontà d'animo. Spetta a noi strappargli la libertà con le unghie e con i denti, creare dei legami solidali tra esclusi, perché alle galere rimanga solo un macabro lontano ricordo. Insomma, quindi invitiamo tutti il 14 aprile alle 15 ad andare a Casal del Marmo e rap in solidarietà ai reclusi e alle reclusi del carcere minorile del Casal del Marmo. E qua c'è un'altra telefonata, non so Mucho come se la sta sbrigando. Butta musica così che... Allora, andiamo di contatti, mi dicono. Allora, per chi volesse scriverci una mail, lagazzaladra@inventoti.org, e invece per chi volesse guardare il nostro sito www.radiopossum.noblogs.com. Pure no, però vabbè. Vabbè, scusa, ho sbagliato. Vabbè, intanto nel frattempo ci continuano ad arrivare telefonate, però purtroppo non facciamo più in tempo a mandarvi in diretta perché è tardi. Però sicuramente ne riparleremo in futuro, casomai. Comunque, vabbè, i contatti li hai detti, quindi appunto salutiamo tutte e tutti. Hai fatto l'invito ad andare a Casal del Marmo. Assolutamente, quindi... sì. In particolare un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale. Umani e non. Ciao. Ciao.